Thank you. Sistemate le ultime cose, cuffie che non funzionano e quant'altro. Cominciamo finalmente. Dunque, alle 22.30, non so se l'ho detto, ma casomai lo dico ora, c'è il ritorno di 25 O'Clock, che appunto ricomincia la sua programmazione. Salutiamo anche Fabiola, sempre da Roma, Alessandro Bellotta, il buon Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Dunque, andiamo dunque ad iniziare finalmente con l'ultimo lavoro di Lisa Gerrard. Tutti probabilmente sanno chi è Lisa Gerrard, il 50% dei Deck and Dance. Quest'ultimi a novembre stamperanno un disco dal nome Dionysus, che tutti attendiamo con curiosità e impazienza, e ci sarà anche una tournée conseguente che toccherà l'Italia in quel di Milano in fine maggio. Nel frattempo però Lisa Gerrard si è dilettata nella sua carriera solista con un album dal nome Hiret, in combutta con David Kunkerman, percussionista di origine teutonica. Salutiamo Like a Wake e anche noi mandiamo un pensiero speciale a Lorenzo, purtroppo scomparso in questi giorni e che ogni tanto faceva anche qualche capatina su queste frequenze e in questi spazi radiofonici. Tornando a Lisa Gerrard, dunque, Hiret, le tematiche affrontate dalla Gerrard sono abbastanza simili al passato, composizioni oscure e misteriche, deliziate qua e là da agganci etnici. E dunque cominciamo con il conoscerlo attraverso The Beginning e Rite of Passage. Personalmente per me è sempre un'emozione ogni nuova uscita sia di Lisa Gerrard, anche di Brendan Perry e soprattutto The Deccan Dance. Qui la Gerrard è in compagnia di David Cookerman, che suona la maggior parte degli elementi percussivi in questo lavoro dal nome Hiraeth. Devo dire un album anche più fresco rispetto a certi album del passato che secondo me non erano proprio indispensabili. Lisa Gerrard, al contrario di Brendan Perry, ha stampato e prodotto tantissimi lavori solisti, mentre Brendan Perry soltanto due. Collaborazioni comunque eccellenti su tutte, Klaus Schulz. E quindi registriamo questa nuova interessante uscita, questo Hiraeth, che fa quasi da antipasto del futuro album dei Deccan Dance, per l'appunto, che uscirà in novembre. Un saluto a Govin Singh Kurana da Ferrara, quindi anche lui in streaming. Buonalupo invece, non so se, ma non credo ormai stia più in Portogallo, lo salutiamo in ogni caso. E di nuovo Alessandra qui da Roma. Dunque andiamo avanti e dopo le vibrazioni etno ambient o oscure di Lisa Gerrard andiamo in casa Ante Zen, un'etichetta tedesca dalle mie parti abbastanza suonata ed apprezzata soprattutto ultimamente di lunedì sera in occasione di Disorder, altro spazio del sottoscritto più dedito all'elettronica ma anche con pillole di gothic e neofolk. Il motivo della permanenza dell'Ante Zen questa sera in questo spazio è perché c'è un nuovo progetto proveniente dalla Grecia dal nome Black Arbor. Black Arbor, guarda caso, non è poi lontanissimo da queste sonorità che ci stiamo ascoltando ora. Quindi stiamo parlando di tribalismo, di esoterismo, di atmosfere oscure, a tratti anche liquide. Questo lavoro di sordo si chiama Madares. E quindi noi ci andiamo ad ascoltare, per l'esattezza, la seconda traccia dal nome Moondrone e la quarta dal nome Sacred Grounds. ancora Black Harbor da questo Madares, onda rossa 87.9 con prove tecniche di trasmissione. Inizio ordunque di prove tecniche di trasmissione improntato su suoni prettamente etnici. E giustamente, come ci dice l'amico Gianluca Becuzzi, c'è molto di muslingose in questa nuova avventura del greco Black Harbor. Vero nome Angelos Liaros, già conosciuto coi Mab Throw in una dimensione completamente diversa, fiancheggiante il breakcore. Quindi, per quanto riguarda invece la sua avventura con Black Harbor, sentite la notevole differenza di suono. Un album che esce per la Teutonica Anzen circa un mesetto fa. I suoni si fanno Eccoci qua. Dicevo, i suoni si fanno abbastanza diversi con C33, progetto già sentito nelle scorse settimane, Parallelo e Test Department, suoni più aspri, neosinfonici e in questa traccia anche alquanto apocalittici. Qui effettivamente più vicini al gruppo madre. Questo album si chiama Ballad of the Reading Gaul e questa sera ci ascoltiamo Movement No. 4, The Devil's Own Brigade. Each day is like year, a year whose days are long. What I call civilized system is much more a kind of rationality than a total institution. And that's the difference between what Goffman has described, these real institutions, with a certain kind of organization, internal organization. What I mean by disciplinary system is much more a kind of rationality. How can we govern other people, form other people, obtain that people behave in a certain way? Which are the best means, the most economical means, the most efficient means in order to obtain that? And that's the discipline. Thank you. burning town, there is a pit of shame. And in it lies a wretched man, eaten by teeth of flame. In a burning, winding sheet he lies, and his grave has got no name. And there, till Christ call forth the dead, in silence let him lie. No need to waste the foolish tear, or heave the windy sigh. The man had killed the thing he loved, and so he had to die. Germosi, dunque, di Test Department, e qui in questa sua avventura solista C-33, lo ricordiamo, ispirato da un racconto di Oscar Wilde. C-33 era proprio il numero della cella dove era detenuto Oscar Wilde nella sua effettiva vita. Ballad of the Reading Goal di Cacofonietta, in questa versione del 2018 arricchita di due tracce, e questo era il brano più influenzato proprio dai Test Department. Andiamo avanti, ce ne andiamo in America Latina grazie al compendio di Raffaele Pezzella, Electroacoustic Music in Latin America, 17 Servi, quindi si può intuire che è un lavoro lungo, e un lavoro lungo uscito nel 2017. Questa sera abbiamo scelto due artisti, chiaramente Raffaele sarà prodigo di informazioni, come sempre fa puntualmente, io lo ringrazio ancora una volta. Il primo artista si chiama Nada e la sua traccia si chiama semplicemente 04, e di seguito direttamente Nullification con Post Data. Thank you. Nada è un progetto composto da Manuel Cunuel e Fabian Rubiliar, proveniente dal Cile. Così scrive il buon Raffaele Pezzella. 04. È questo il titolo del brano in questione. E a breve partirà anche Nullification con Postdata. due momenti, se vogliamo anche parzialmente contrapposti, di questa compilation dedicata alle realtà sotterranee del Sud America. L'evanescenza e il minimalismo di Nada e invece questi drone death ambient al confine con l'industrial noise di Nullification, che peraltro è un progetto al femminile di Maria Emilia Perez proveniente dal Venezuela. Il che mi dà anche là per una brevissima considerazione sul fatto che negli ultimi tempi, fortunatamente, sono andate in auge delle artisti femminili, Pussy Mary, Pharmacon, Anna von Hauswolf, e questa sera ne andiamo a conoscere un'altra che ritengo tra le più interessanti degli ultimi tempi. Si chiama Lingua Ignota. Lei in realtà proviene dagli Stati Uniti ed ha al suo attivo due lavori. Questo è l'ultimo, All Bitches Die, col quale andiamo a iniziare a conoscerla. U to all on the day on my road, per Lingua Ignota.